Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buonasera a tutti da Gegè Telesforo, siete in contatto con il Soundcheck, la prova del suono di Radio 24, appuntamento numero 174 che oggi ospita per me un monumento del giornalismo musicale italiano. La settimana scorsa abbiamo avuto nostro ospite Ernesto Assante, che potrebbe anche considerarsi una sorta di come potrei considerarlo nei tuoi confronti, Ernesto Assante? Beh, diciamo, Renato, che è stato uno dei giovani esordienti nel giornalismo con cui ho avuto contatto, come con Gino Castaldo eccetera, che ci siamo ovviamente a cui abbiamo dato quando si riusciva spazio, e oggi si trova a essere uno dei giornalisti più di riferimento. Ebbene, io vado a introdurvi un mio amico, giornalista, figlio d'arte, perché suo padre era un formidabile musicista, suonava la viola presso l'orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, si è avvicinato alla musica prestissimo. Non so se aveva intenzione di fare il musicista da grande, fatto sta che la musica l'ha frequentata e continua a farlo, avendo lavorato come giornalista musicale, mettendo su, io mi ricordo quando ero ragazzino, andavo in edicola a comprare quello che era il giornale di riferimento per gli appassionati di musica italiani, che era Ciao 2001. Quindi vado a introdurvi con grandissimo piacere, tutto l'affetto possibile, la stima che ho per Renato Marengo ormai da tantissimi anni. Renato, buonasera e benvenuto al Soundcheck. Buonasera, ciao Gegè, buonasera a tutti gli ascoltatori. Non possono vedere che mi hai fatto diventare rosso, comunque mi fa piacere di questa bella presentazione. Ma Renato, io ho letto i tuoi articoli, ho visto i tuoi programmi televisivi, ho ascoltato tutta la radio che hai fatto ormai in quanti anni di carriera? Insomma, ho cominciato prima degli anni 70, insomma, avrò cominciato alla fine dei 60, in pieno 68. Insomma. Allora, andiamo, tanto abbiamo due ore a disposizione per raccontare le tue vicende con la musica e soprattutto con te, che sei un esperto di comunicazione, verificare com'è cambiata la comunicazione musicale da quando tu hai iniziato, quindi stiamo parlando proprio degli inizi degli anni 70, sì, a oggi. Continui a frequentare la musica, ma andiamo per gradi. Tu ti sei avvicinato alla musica in quale modo? Dunque, innanzitutto, ecco, papà suonava a San Carlo, c'aveva anche un quartetto d'archi, quindi diciamo mi portava piccolino con i pantaloni corti a seguire le sue cose, quindi questo ascolto è servito, mi è entrato nel sangue, e tutto sommato sarei dovuto diventare anche un musicista. In quel momento si badava anche a cosa farai da grande, papà manteneva tutta la famiglia eccetera, e c'erano dei posti liberi per oboisti, mentre violinisti e violisti già, quindi mi è stato fatto studiare l'oboe. Purtroppo con l'ancia non ci prendevo. Avevo qualche problema, disse il collega papà, Elio, fagli fare qualcos'altro. Ecco. Allora, però ho studiato musica e essere stato dietro le quinte del San Carlo a sentire cose fantastiche, a vedere il drago di Sigfrido, ma anche a sentire delle cose orchestrali, mi è servito molto per la mia personale formazione. Addirittura ho cominciato a scrivere su un giornale di classica che si chiamava Il Loggione, un giornale dedicato alla musica lirica, però la mia passione era qualcos'altro, mi accorgevo che c'era e insomma sono stato folgorato da alcune conoscenze, da alcuni ascolti, che ti dico, spazio fra Roberto De Simone e Frank Zappa, ecco. Allora, Renato Marengo è il nostro ospite, io ti faccio fare un salto nel passato in questa prima parte, ti omaggio con il sound tipico degli anni 70, con band di riferimento delle quali sicuramente hai parlato quando scrivevi su Ciao 2001, e quindi diamo il via con un successo dei Blood, Sweat and Tears. Il brano favoloso si intitola Spinning Wheel, qui al Soundcheck di Radio 24. Someone is waiting just for you. Spinning wheel, spinning true. Drop all your troubles by the riverside. Catch a painted pony on the spinning wheel ride. Ha! Eh sì, per omaggiare il nostro ospite Renato Marengo, giornalista dagli anni 70, ma ne ha fatte di tutti i colori, parlando di musica, autore di programmi televisivi, autore di programmi radiofonici, anche producer discografico, soprattutto specializzato in sonorità napoletane contemporanee, anche se la sua formazione, come ci ha raccontato, arriva proprio dal San Carlo di Napoli, dove il papà era uno dei musicisti, uno dei professori d'orchestra. Quindi diciamo che la frequentazione della musica classica in qualche modo ti ha avvicinato alla musica e poi ti è servita. È servita come, se posso dare un consiglio a tutti quelli che fanno musica, prepararsi e sentire da dove veniamo e che cos'è la base sia della nostra cultura popolare sia anche della musica cosiddetta seria, no? La musica colta. Bene, è servito e come, per così come uno che, io faccio sempre l'esempio con la pittura, uno che vede Picasso e dice ah questo fa, questo, anch'io so fare questi sgorbi, queste deformazioni, guardatevi che cosa ha fatto Picasso per arrivare a fare delle cose diverse, no? La famosa pittura contemporanea. Questo giusto per fare un esempio. Ma tu noti ascoltando i musicisti della nuova generazione, italiani o internazionali, quando c'è una preparazione di base? Ecco, questo è importante. Lo allora, noti? Sì, perché suonare è anche un hobby, no? Suonare è anche una passione, per cui tutti pensano di saper suonare e di poter suonare, perché gli strumenti a disposizione oggi, dalle tastiere alle chitarre agli strumenti elettronici, sono facilissimi da approccio. Però c'è un distinguo fra chi suona con la consapevolezza di quello che fa, sta componendo, a chi invece suona perché così sta facendo suoni, facendo musica. C'è una grande differenza, e non a caso poi chi emerge veramente, che la gente lo sente a istinto, chi emerge veramente è sempre una persona più preparata di un'altra. E quindi oggi le nuove generazioni, come dice Renato, sono agevolate anche dall'utilizzo della tecnologia che in parte utilizzavano sempre negli anni 70 dei grandi musicisti preparati come Walter Becker e Donald Fagen, che erano i leader degli Steely Dan, band che naturalmente ha vissuto momenti anche di stop, alcuni momenti, anni di pausa, però sono tornati in auge, ma noi li recuperiamo proprio dal periodo d'oro con un loro successo intitolato Do It Again, Steely Dan al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Sempre per omaggiare il nostro ospite, il giornalista Renato Marengo, ma dire giornalista è quasi riduttivo, per lui che ha prodotto dischi importanti, che ha firmato tanti programmi televisivi legati alla musica, il sound della Average White Band Pick Up the Pieces. La prima volta che ascoltai questo pezzo stavo guardando in televisione un programma del mio amico Renzo Arbore, quando io ancora non facevo questo lavoro da professionista, e guardavo un programma intitolato L'altra domenica, e Renzo presentò questa band strepitosa, una band bianca ma che coniugava al 100% il sound tipico dell'R&B di James Brown, insomma l'R&B nero. Sì. Allora Renato Marengo, nostro ospite, ho già anticipato, ho raccontato che tu sei stato il direttore ma anche uno dei promotori di una rivista molto importante per gli appassionati di musica della mia generazione, Ciao 2001. Qual era il fermento che si viveva allora nei confronti della musica? Dunque, innanzitutto, giusto per dirlo a chi oggi legge dovunque e dappertutto di rock con molta facilità, allora era l'unica rivista c'era anche Giovani, c'era un'altra rivista che era Musica Jazz, che continua a vivere, che parlava solo di jazz, continua a parlare di jazz, ma parlando proprio di rock e di pop rock, di quello che avveniva diciamo in Gran Bretagna, in America, e di cui non si aveva notizie se non tramite Ciao 2001, per dire al breve, insomma, divenne in brevissimo tempo cult, al punto che il martedì, quando usciva in edicola, alle 8, alle 7 e mezza c'erano le file di ragazzini che cercavano di accaparrarsi la copia, perché finiva in un attimo, anche se ha raggiunto cifre di 80, 90, 100 mila copie a settimana, per cui è diventato, ma era l'unico che ne parlava, perché ne parlava innanzitutto con molta obiettività, spiegava che cosa fosse, spiegava sia la tendenza, mm-hmm. perché era una rivista che dava molto spazio anche al comportamento, al vivere rock, no? Quindi raccontava qualcosa che succedeva fra Londra e l'America, a cui a noi interessava moltissimo. Scusami, ma tu che raccontavi delle vicende musicali internazionali, come facevi ad accaparrarti le notizie? Avevi dei collaboratori all'estero? Perché oggi è tutto semplice, col computer è facilissimo trovare notizie e magari avere anche dei collaboratori che seguono i concerti fuori e poi ti mandano una mail dove descrivono il tutto. Ma allora come funziona? Allora io ho iniziato col fax. Ho iniziato collaborando, ovviamente, poi dopo sono diventato coordinatore generale negli anni, eccetera. Però diciamo che c'era un piccolo gruppo, il gruppo storico, no, di critici, che erano anche un po' ricchetti, per cui avevano l'abbonamento al Billboard e gli arrivava tutto quello che veniva pubblicato, no? Ci muovevamo, eravamo già da allora, ci muovevamo, ogni tanto andavamo a Londra, andavamo in giro per l'Europa e quindi scoprivamo la musica. Vabbè. I collaboratori, sì, ce n'erano tanti da tutte le parti, soprattutto da Londra, da New York, ma tanta musica veniva raccolta appunto da questo nucleo di appassionati esterofili da morire, perché la musica italiana all'inizio era quasi vietata, perché non c'era rock. No. E poi allora i giornalisti dovevano scrivere, cioè ascoltare i dischi, vedere i concerti, fare la loro recensione. Oggi invece diventa quasi più semplice, si fa un gran copia e incolla. Esatto. Allora invece era proprio, pensa che i primi timidi critici di musica rock o di musica moderna sui quotidiani copiavano o compravano o leggevano Ciao 2001. Hai mai scritto di Stevie Wonder in quel periodo? Beh sì, ma anche perché avevo una precedente formazione. Io, prima ancora di diventare giornalista e scrivere eccetera, ho debuttato come ufficio stampa degli Showmen, che sono stati il primo gruppo di rhythm and blues italiano, che era esattamente, insomma, diciamo, attingevano all'allora Tamla Motown e a tutto quel movimento di rhythm and blues che poi è diventato famoso anche da noi, e quindi in Italia c'era questo suono, quindi mi è stato semplice dopo scrivere di questo genio, di questo mostro. Ecco, che torna proprio da quel periodo, Tamla Motown, disco di grandissimo successo, Grammy Award, premi infiniti per Songs in the Key of Life, capolavoro di Stevie Wonder, gran parte delle tracce le aveva suonate tutte lui in studio. In questo brano c'è però la partecipazione di Herbie Hancock sul Rhodes Fender, il brano è As Stevie Wonder al Soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. Questo è il Soundcheck, la prova del suono di Radio 24, che oggi incontra il giornalista, autore radiofonico e televisivo Renato Marengo, ma anche producer discografico, e parleremo anche della tua passione per la musica napoletana, quella rock originale, ma poi anche l'evoluzione che ha toccato sonorità diverse dal rock al rap contemporaneo. Ne parleremo magari nella seconda parte. Adesso invece vorrei parlare con te di televisione. Ecco, tu hai firmato tanti programmi televisivi. Quanto era difficile allora organizzare programmi dedicati alla musica? Era difficile soprattutto perché per la televisione, che era molto dietro rispetto alla radio, rispetto anche alla discografia, il leader era sempre il cantante e il tipo di musica, diciamo, che era così rassicurante era la leggera, no? Quindi c'era questo dopo, quando arrivava un gruppo rock dove c'era inquadravano sempre il cantante, il gruppo era quasi, no, a differenza di quello che avveniva nel resto. Quindi fare dei programmi, proporre dei programmi di musica è sempre stato molto difficile, però diciamo che avevamo dello spazio. Io devo molto ai telegiornali, c'era Ezio Zeffiri che faceva un programma degli speciali molto importanti, alle direttore del TG2, faceva Dossier e Grandangolo, che erano dei programmi che spaziavano nella informazione, e per lui l'informazione fortunatamente era anche quella giovanile, quella musicale, ed era anche capire che succedeva sia in Italia, rock spaghetti oppure le cantine, uh-huh, e sia all'estero, e quindi avere dei grandi ospiti. Allora diciamo che i telegiornali, prima ancora delle reti, hanno ospitato degli ottimi programmi musicali. Quindi fra le news importanti di politica e cronaca, c'era anche la musica. E interi speciali di un'ora, che erano appunto Dossier Grandangolo Sestante, dove ci si chiedeva dove va la musica, che cos'è questa musica. C'era anche la possibilità di spiegarla, no? Anche se giustamente sia Morricone che Battisti che gli altri dicono la musica non si spiega, si ascolta, però era giusto farlo in una televisione che era abituata alla leggera, no? Sì, no, sai perché? Perché io sono cresciuto, cioè quando ho iniziato a fare questo lavoro, e poi mi sono capitate varie occasioni di condurre programmi musicali anche importanti come Doc e altre cose, però sono cresciuto con questa spada di Damocle da parte soprattutto dei dirigenti delle varie strutture televisive, ovvero che la musica in termini di ascolto non paga, quindi c'è un caricamento pubblicitario inferiore rispetto alla TV più popolare e commerciale, e quindi non fa ascolti, non fa introiti, e alla fine i programmi televisivi musicali oggi non esistono più, a parte i reality show. Esatto, ma tutto questo avveniva perché innanzitutto non sapevano riprenderla, non sapevano valorizzarla. C'è stato un personaggio grandissimo, un grande regista, che era Antonello Falqui, che ha cominciato a dedicare lui era quello con lo studio completamente aperto. Antonello, noi lo omaggiamo, diciamo, ci sta ascoltando, sì, mi piacerebbe tantissimo incontrarlo e averlo ospite al soundcheck. Vorrei dire che a lui si deve che la prima serata da cui si aspettava lo show, fatta da Antonello Falqui, è una prima serata dove lui la prima cosa eliminò gli orpelli, le finte scene, roba, sì, del genere, affidando, io ricordo, gli studi bianchi, esatto, no? Esatto, affidando a un personaggio come Mina la conduzione. Già questo ti fa capire, Mina era insomma la fuoriclasse che sappiamo, e lì lui ha cominciato, lui sapeva come riprendere la musica. Ricordo che il debutto della nuova compagnia di canto popolare fu in un programma di Gabriella Ferri, dove diedero spazio alla nuova compagnia, questo Tammuriata Nera, che era considerato folk, musica non si sa bene che, non la distinguevano da quella dei Merola, eccetera, e lui valorizzò in un modo straordinario questa musica, andando sugli strumenti, cogliendola, facendola vedere. Ecco, il famoso l'immagine del suono, no? Che è una cosa sulla quale ho sempre puntato molto, no? Tutti gli artisti che hanno lavorato con Antonello Falqui ricordano giornate o settimane intere di prove infinite, perché Antonello aveva una cura maniacale nei confronti dei dettagli proprio, esatto, della ripresa, del suono, e anche un grandissimo rispetto per i grandi artisti che hanno fatto poi la storia della televisione, certo, italiana. Io vorrei chiudere questa prima parte del nostro soundcheck, prima di dare la linea all'informazione, facendoti ascoltare qualcosa, ma purtroppo non possiamo vedere perché esiste anche un DVD di questa pubblicazione. Il concerto è stato ripreso molto bene, una grande produzione americana, che si intitola Jazz at the Philharmonic, una grande orchestra di talenti che vengono da scuole di musica americani, che si sono riunite per questo grande evento che coniuga la passione per la musica in senso lato, quindi dal jazz alla musica classica. E questo è un esempio che ci viene dato da questa performance di questa meravigliosa orchestra, con la la partecipazione del trombettista Terence Blanchard, che è stato anche uno degli artefici di questa incredibile produzione musicale, e la partecipazione di un talento pianistico, che una ragazza che si è formata con la musica classica, che si chiama Elizabeth Joy Roy. Il brano si intitola Solfeggetto, è una meraviglia, qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. I get no kick in a plane, flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick. Di nuovo in contatto con il Soundcheck dopo l'informazione di Radio 24, nostro ospite Renato Marengo, e gli ho fatto ascoltare adesso, ho fatto ascoltare a tutti Shirley Bassey, la voce potentissima di questa veterana che ha spaziato fra il jazz, il soul e l'R&B, in un classico di Cole Porter intitolato I Get a Kick Out of You, un successone, un classico di Cole Porter per Renato Marengo, nostro ospite. Perché certi suoni non si ascoltano più in radio? Beh, sai, purtroppo la radio è diventata sempre più spesso anche quella ufficiale, cioè quella della Rai oppure dei grandi network, è diventata sempre più spesso legata alle playlist, no? Legata a una specie di musica che bisogna mettere per dare promozione, non è il caso ovviamente del tuo programma, a musica che bisogna accontentare perché forse sta in classifica, a musica facile, e si dà sempre meno spazio agli autori conduttori che una volta insomma caratterizzavano. Io mi ricordo, venivamo con i nostri dischi da casa, certo, e non c'era nessuno che ci diceva che era una bella soddisfazione. E il nostro capostruttura non ci diceva che metti oggi, cos'è? Ascoltava, il programma andava bene e funzionava. Ed è questa libertà e questo legame personale fra chi conduceva, chi sceglieva, e le musiche che mandavi in onda erano il segreto, no? Quindi si mandava la buona musica perché c'era anche delle buone scelte e dei buoni conduttori. Ecco, vorrei dire questo, anche lo spazio per farlo. E quindi oggi nelle radio, nei grandi network, si scelgono persone che hanno la parlantina, una facilità nel linguaggio, esatto, pur non avendo musicalmente una passione in particolare. Certo, più DJ e conduttori che non autori, quindi intrattenitori, esatto, bravo, che magari fanno benissimo il loro mestiere. E poi c'è questo discorso dei pezzi commerciali, no? Legati alle radio, soprattutto le radio commerciali hanno bisogno di far ascoltare un tipo di, o pensano che sia giusto far ascoltare un tipo di musica che piace al grosso pubblico. Questo grosso pubblico poi chi è? Quando mandavamo in onda quelle musiche che stai mandando adesso, il grosso pubblico era contento perché la musica bella è bella e giusta in maniera obiettiva. Allora, Renato, ti faccio scoprire una cantante svedese. Guarda che bella ragazza, come sorridente, ormai non è più giovanissima, è considerata in Svezia una veterana per il jazz, sì, e la musica di qualità. Si chiama Rigmor Gustafsson, l'abbiamo già presentata qui al Soundcheck. L'album è delizioso, molto carino, facile, ma ben arrangiato, molto ben realizzato, album intitolato When You Make Me Smile. Questa è una sua composizione che si intitola If Dreams Are Made of Sense. Rigmor Gustafsson al Soundcheck di Radio 24. If dreams are made of sand, is it wrong to imagine that I could live outside of these walls in disguise? For all I know, the world could be cardboard and plastic, deceitful and fantastic. If dreams are made of sand, Soundcheck, il suono della musica. Sound del nuovo album del maestro del basso elettrico ma anche eccellente contrabbassista Stanley Clarke con la sua band, album nuovissimo per la Mac Avenue intitolato Up, e questo era un blues in una veste contemporanea, brano intitolato Pop Virgil. Pop Virgil qui al Soundcheck di Radio 24 con nostro ospite Renato Marengo. Abbiamo parlato di radio, abbiamo parlato soprattutto di televisione, abbiamo parlato della radio, e adesso io invece vorrei omaggiare un programma che tu hai condotto per parecchio tempo insieme al nostro amico Michel Pergolani, che salutiamo, un programma che è stato un appuntamento di riferimento per i nuovi artisti italiani, un programma che è andato in onda su Radio 1, su Radio 1 della Rai per quanti anni? 12 anni, quindi quasi un'istituzione, sì. Sono cambiati molti governi, però il programma sì. Andava avanti. Qual era l'obiettivo di Demo? Di dare spazio sulla radio più ascoltata allora, che era Radio 1, a chi spazio non aveva, perché non era raccomandato, perché non era presentato a una casa discografica, perché non aveva il famoso successo o il famoso nome alle spalle, ma semplicemente per la qualità e per la, del suono, per il fatto che riusciva con mezzi propri e automatici a far sentire che la musica, nonostante la crisi del disco e del CD, la musica non è assolutamente in crisi, ma c'è tanta, tantissima vivacità e vitalità di ogni genere. Tu avverti ancora oggi che c'è fermento fra i ragazzi, c'è ancora la passione per la musica? Assolutamente, se qualità e quantità si potessero sposare saremmo in un momento di altissimo livello per la musica. Dicevamo sempre anche con Michel che se ci fossimo trovati o in Inghilterra o in America, questi artisti sarebbero diventati dei leader immediati. Alcuni ce l'hanno fatta, perché Demo comunque, anche se non faceva promozione, non era legato ai Sanremo, ai festival, ai talk show, ai talent show, ma metteva in onda talenti veri, riusciva appunto a dare voce a chi solitamente voce non aveva, e questo a molti è servito a fare un disco, a fare dei tour e a fare della propria passione anche la propria professione. Questo era una delle prerogative. Allora torniamo al blues. Abbiamo sentito quello contemporaneo di Stanley Clarke con il suo basso elettrico, invece passiamo a un veterano del blues, sicuramente un musicista che tu hai apprezzato, probabilmente lo hai anche conosciuto, The Incredible Jimmy Smith, organista di riferimento per tutti gli amanti di questo meraviglioso strumento, che è tornato in auge, sì, anche fra i più giovani. Eccolo qui Jimmy Smith col suo organo Hammond in compagnia di un altro campione del blues di oggi, il formidabile compositore, cantante, chitarrista Cab Moe, in un brano intitolato Over and Over. Cab Moe e Jimmy Smith al Soundcheck di Radio 24. Don't cook no more chitlins up for me, please. Don't cook no more chitlins. Woo! Sound check. Il suono della musica. And if you should survive to 105, look at all you'll derive out of being alive. And this is the best part. You have a head start. If you are among the very young at heart. E Questa è una ragazza giovanissima con grande passione per la musica che ha ottenuto grandi consensi partecipando al contest di cantanti lì durante il festival di Montreux diretto da Quincy Jones alcuni anni fa. Si chiama Cyrilla Aimé e questo è un classico di Jimmy Van Housen intitolato Young at Heart, e questo a dimostrare come i musicisti e i cantanti della nuova generazione si divertono a suonare di tutto. Sì, perché Cyrilla Aimé, cantante che non avrà neanche 25 anni, è grande appassionata di jazz, di swing manouche, ma si cimenta anche con operazioni musicalmente contemporanee, quindi ascolta di tutto, è un po' come fai tu, caro Renato. Sì, ma a proposito di Montreux mi fai ricordare una cosa, il Montreux di qualche anno fa, qualche decina di anni fa, un festival straordinario dove fu ospite Tony Esposito, che prima di Calimba de Luna, chi si ricorda il primo Tony Esposito, era jazz rock del migliore, con Paul Buckmaster, eccetera. Sì, Napoli Centrale. Napoli Centrale, eccetera, bravo, e c'era lui, c'era Pino Daniele, insomma c'era il vero nostro jazz rock, e lì abbiamo conosciuto un personaggio che ha segnato la mia vita, purtroppo non c'è più, ma è stato con cui sono diventato proprio amico, che era Joel Zawinul. Mamma mia! Con i suoi Weather Report, insomma, ci ha cambiato l'esistenza, e lui è venuto in mezzo a noi e amava molto questo che faceva, cioè quello che faceva sia Tony, sia James Senese, sia Napoli Centrale, insomma abbiamo avuto questi favolosi contatti con i Water Report. Abbiamo parlato di demo, quanto ti manca fare radio? Beh, mi manca perché faccio radio da quando, dal 70, da sempre, no? Però devo dire, ecco, che grazie ad amici come te e e tanti altri come non lei, ti mancano le occasioni, non mi mancano le occasioni. Adesso anche a Napoli, a Lab 2, la radio dell'università di Lello Samonardo, sono spesso ospite, eccetera. Diciamo che, ecco, campo anche d'altro, ma continuo a coltivarne la passione. Poi mi è sempre piaciuto, dirigo un mensile di cinema, mi occupo di un contest di cortometraggi video, mi occupo di una mostra del grande Cesare Andreabixio, quindi delle musiche diverse, quindi ho una vivo nella musica anche a prescindere, però la radio è la radio, quindi sono molto contento oggi che mi stai però io te lo voglio dire, so che demo manca moltissimo ai giovani artisti italiani. Quando finì il programma la rete fu invasa, esplose con messaggi, sì. Ridateci demo, ridateci demo, sì, ecco. Perché più che mancare a me, a Michelle, che insomma diciamo in maniera che ancora non ci spieghiamo, sai, quelle cose misteriose che vengono ma sai come cambiano i dirigenti, sì, e esatto. Poi ognuno ha idee diverse. Manca ai ragazzi l'unica vera chance di andare in onda esclusivamente per la propria abilità, perché parliamoci chiaro, i grandi talent televisivi sono legati all'immagine, all'apparire, ai maestri, alla litigata, al sputare sui professori, al litigare fra di loro, e poi anche alla musica, no? Stiamo vedendo che ci si avvicina sempre più a quelli inglesi e americani, quindi migliora un po' le cose, però è sempre una competizione dove emerge anche chi non emerge solo per le qualità musicali, ma anche magari perché è vestito in un certo modo, perché è strambo. Da noi andava in onda solo la musica, e i ragazzi non hanno una chance. Vabbè, ma voi avete fatto anche delle selezioni accurate, quindi sono sicuro che magari nei prossimi anni ci ritroveremo, che so, sul palco di Sanremo, per non dire il, sì, primo maggio, artisti scoperti e lanciati da demo, certo, come per esempio questa cantante che io andai a vedere in un piccolo club a Umbria Jazz, ma ti sto parlando di 15 anni fa, che poi, prodotta da Tommy Lipuma, è diventata una delle star di riferimento del jazz contemporaneo, e si chiama Diana Krall, che sta tra l'altro tornando discograficamente con una nuova produzione. Intanto, prima di ascoltare i brani tratti da questo nuovo album, torniamo a gustarcela con un classico sempre di Jimmy Van Housen intitolato Come Dance With Me. Diana Krall al soundcheck. Hey there kids, put on your dancing boots. Come dance with me. Come dance with me. What an evening for some terpsichore. Handsome face, I know a swinging place. Come and dance with me, romance with me, cross a crowded floor. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. All the things you've always pined for. see me looking swell, lady. Diamond bracelets won't work, doesn't sell. Gaga. Till that lucky day, you know. Seconda parte del soundcheck di Radio 24, molto swing per omaggiare il nostro Renato Marengo, e questa è una novità, è album di grande successo, già primo in classifica e in prevendita, adesso è in distribuzione e quindi sta scalando le classifiche del jazz, ma non solo del jazz, in virtù proprio di questa accoppiata unica, io la chiamo la strana coppia, il veterano Tony Bennett che incontra una star del pop di oggi come Lady Gaga in questo classico intitolato I Can Give You Anything But Love. Il tempo a nostra disposizione, mio caro Renato Marengo, sta per concludersi. È volato. Beh, è volato, mi hai raccontato tante cose, sono contento di trovarti in forma e con l'entusiasmo che non ti ha mai abbandonato. Beh, ci hai anche fatto ascoltare tanta bella musica, il che sostiene, no? Ecco. Allora, in cosa sei impegnato in questo momento, sempre parlando di musica? Beh, è un grande ritorno di fiamma, diciamo, poiché un po' di anni fa avevo inventato questo Naples Power, no? Questo che poi è diventato un movimento culturale, esatto, legato alla musica napoletana. Esatto, musica napoletana. Ora, Pino Daniele l'anno scorso, facendo 5.000 persone a sera per 5 sere, con questo tutti i protagonisti, questo, ha dimostrato la vitalità e la vivacità. Erano tutti giovanissimi ad ascoltare, per loro è stata una novità di questo museo. Quindi Naples Power continua, non si è mai fermato, e non si è fermato con la nascita del rap, dei vari 99 Posse, Alma Megretta in qualche anno fa, fino ad arrivare oggi che nuovamente gli artisti napoletani di rock, di jazz e soprattutto il rap, no? Che come sai Napoli un po', insomma, il Bronx non manca, continua a essere, secondo me, sono i leader italiani del rap, non faccio del campanilismo, sono sicuramente napoletani, vedi Clementino, vedi i vari, insomma, anche Rocco Ante che è andato a Sanremo. E io ho riscoperto un personaggio che avevo imparato ad amare quando ho scritto il libro su Gragnaniello insieme a Michel, ed è il suo percussionista, che è Ciccio Merolla, che è molto più di un percussionista, è un musicista, un artista, un rapper. Il suo Pitbull è stato nelle classifiche video per molti anni, e adesso lui sta preparando dei nuovi brani di rap, ma anche della musica splendida, e a me è tornata la voglia di fare il produttore, quindi mi sto accingendo a produrre un ennesimo artista del Naples Power, che è per me un continuare, che è Ciccio Merolla, con cui sono certo che avremo delle soddisfazioni molto grosse. Allora facci quando la produzione sarà ultimata, mandaci una copia su CD, come si faceva una volta, che le case discografiche fornivano gli album in vinile prima e poi i CD, adesso invece è tutto telematico. Sì, cioè, le tracce, ma comunque un CD sicuramente con le copertina giusta. La sua copertina dell'ultimo disco che ha fatto l'ha fatta Mimmo Iodice, uno dei più grandi artisti italiani, quindi diciamo torniamo anche Produzioni curate nei dettagli, anche nelle immagini del suono. Esatto. Allora, grazie a Renato Marengo, nostro ospite, vi lascio e ti faccio ascoltare un altro musicista italiano non molto conosciuto, che spazia fra la musica classica e il jazz, si chiama Massimiliano Rocchetta, un album nuovissimo per lui in trio, ma anche con varie tracce in solo piano, e come vedi anche un bel cofanetto, sì. Perché tutto il concerto, cioè il concerto, tutta la performance in studio è stata poi ripresa dalle telecamere, quindi se si ha la possibilità di poter vedere anche sul computer o sul DVD, uno potrà apprezzare ancora di più il talento e la genialità compositiva di Massimiliano Rocchetta, che qui ascoltiamo in una sua composizione solo piano. Il brano si intitola I'll Be Waiting For You On The Other Side Of The River, ti aspetterò dall'altra parte del fiume, che è già una bellissima immagine. pagine. Noi ci risentiamo domani, soundcheck della domenica diviso in due parti, prima parte dalle 15.30, poi dalle 19.15 con il nostro ospite Ben Sidran collegato con noi via Skype. Grazie a Renato Marengo. Grazie a te Gigi, e anche alla bella musica che ci hai fatto. Grazie, sei gentilissimo. A tutti voi buona serata da Gigi Telesforo qui dal soundcheck di Radio 24.